dobbiamo guidare una squadra, io l'ho sempre detto dal primo giorno, adesso è una squadra però coesa, noi non possiamo ripensare di riportare in campo il vecchio teatrino della politica, delle mediazioni, dobbiamo farlo in maniera seria. Ma adesso si va alle trattative con gli altri partner? No, non andiamo alle trattative alla vecchia maniera. Abbiamo deciso che una squadra, l'abbiamo deciso dal primo giorno, decide insieme, con grande voglia di cambiamento, e devono tutti condividere un progetto.